2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14 con la nostra breve replica domenicale. Ma come sempre vi ricordo che esiste una fantastica versione podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Ci sono alcune notizie che riguardano la propulsione elettrica delle automobili, e se uno prova un'automobile elettrica capisce che quello è il futuro e non certo il motore a scoppio, e più uno prova l'auto elettrica più capisce che il motore a scoppio ormai è una cosa del passato. Però la prima notizia riguarda Volvo, che ha annunciato che i nuovi modelli prodotti a partire dal 2019, che è dietro l'angolo, saranno elettrici o ibridi. Quindi dal 2019 verranno prodotti solo veicoli elettrici o ibridi, e solamente quelli lanciati prima del 2019, che continueranno ad essere in produzione, saranno o comunque continueranno ad avere una versione con motore a scoppio. Ricordiamo che Volvo è di proprietà di un gruppo gigantesco cinese che si chiama Geely. Nel frattempo Mercedes ha annunciato l'intenzione di investire 650 milioni di euro per costruire in Cina una fabbrica per produrre batterie al litio e supportare così la produzione e la vendita di automobili elettriche nel paese o comunque nell'area asiatica. Un'altra notizia che riguarda le auto elettriche arriva da Roma, dove il comune ha confermato che il 14 aprile 2018 farà tappa in città una delle gare del campionato di Formula E, che ricordiamo è la Formula 1 elettrica con automobili che assomigliano come forma, e quindi hanno le ruote scoperte, assomigliano a quelle della Formula 1, però ovviamente hanno un motore elettrico. La Formula E, che esiste già da qualche anno in tutto il mondo, si svolge su circuiti cittadini. Per quanto riguarda Roma esiste già un tracciato che è stato individuato. Uno degli aspetti positivi di questa gara è che verrà fatta una asfaltatura e verrà pagata dagli organizzatori della Formula E, quindi non ci saranno esborsi da parte del Comune di Roma, e la città guadagnerà, oltre che una serie di colonnine elettriche, anche l'asfaltatura completa di tutta questa area. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. È online da pochi giorni la versione italiana di Quora con la Q di Quadro, una piattaforma di domande e risposte nata in lingua inglese 8 anni fa e che viene usata ogni mese da circa 200 milioni di persone. Chiunque può proporre una domanda, il sistema propone questa domanda agli autori che si sono registrati sul sito e hanno indicato un campo di competenza affinché appunto scrivano una risposta. Quora, che cerca di mantenere un alto livello della qualità delle risposte, vive di pubblicità, ha raccolto recentemente finanziamenti per 85 milioni di dollari. Abbiamo recentemente parlato di Be Your Farm, una startup che punta a mettere in contatto consumatori e agricoltori facendo adottare alberi da frutta a distanza. Un nuovo progetto simile è stato appena lanciato ed è Coltivatori di Emozioni. C'è un sito internet che si chiama proprio così, www.coltivatoridiemozioni.com. Anche in questo caso si adotta una coltivazione e si ricevono i prodotti a casa. Il tema è come utilizzare la tecnologia per accorciare la filiera, ridurre i prezzi, avere maggiore controllo sulla produzione e anche possibilmente maggiore qualità. Questi sono soltanto due esempi, ma tutto il mondo dell'agricoltura sta cercando nuove forme anche per la tracciabilità dei prodotti, e sicuramente la tecnologia in campo agricolo sta vivendo un momento di forte interesse. Molti di voi ricorderanno Joe Bone, che è uno tra i più noti produttori di braccialetti fitness, i cosiddetti wearable device, cioè strumenti indossabili, cosiddette anche activity tracker, perché tracciano la nostra attività quando corriamo, anche quando dormiamo. Joe Bone produce, o meglio produceva, perché adesso vi racconto che fine ha fatto, altri apparecchi come auricolari molto performanti derivati da tecnologie militari. La notizia di poche ore fa: l'azienda è stata messa in liquidazione. Un'ultima notizia riguarda Qualcomm, che è uno dei più importanti produttori di chip per smartphone, uno dei grandi colossi dei chip, che ha annunciato che chiederà al governo americano di vietare le vendite di iPhone e iPad negli Stati Uniti. Perché? Perché, secondo Qualcomm, Apple avrebbe violato 6 brevetti e quindi chiederà, alcuni osservatori giudicano questa una mossa solamente per poi trovare un accordo, però era da un po' di tempo che non commentavamo notizie relative a una guerra di brevetti. Dunque, c'è un'altra notizia che merita un breve approfondimento. L'antitrust italiano ha avviato un procedimento nei confronti di TIM per possibili abusi di posizione dominante nel mercato della banda ultralarga. L'autorità vuole capire quanto TIM potrebbe aver ostacolato lo svolgimento delle gare Infratel nelle aree a fallimento di mercato, in modo da preservare la posizione monopolistica storicamente detenuta in tali territori ed evitare l'ingresso di nuovi operatori concorrenti, scrive l'antitrust. Ricorderete che recentemente abbiamo parlato di queste gare che sono state fatte dallo Stato che utilizzano risorse prevalentemente europee per far costruire nelle aree a fallimento di mercato, che sono un bel pezzo dell'Italia, una rete che rimarrà di proprietà pubblica, ma una rete in fibra ottica che poi verrà utilizzata dagli operatori. L'oggetto di indagine dell'antitrust sono la modifica di alcuni piani di investimento di Telecom Italia e la strategia per rallentare lo svolgimento delle gare, che secondo l'antitrust sarebbe stata condotta anche attraverso la proposizione di numerosi ricorsi. Rallentando le procedure di selezione dei soggetti incaricati di realizzare le reti a banda ultralarga in queste aree, TIM potrebbe, secondo antitrust, ostacolare lo sviluppo di forme di concorrenza infrastrutturale e l'entrata di nuovi concorrenti. In effetti, secondo qualificati osservatori di questo mercato, Telecom sta cercando di rallentare questo processo perché, innanzitutto perché arrivano nuovi concorrenti, ma poi anche nel momento in cui verrà attivata la nuova rete in fibra ottica di Open Fiber, che è il soggetto che finora ha vinto queste gare di Infratel, cioè le gare pubbliche che sono state fatte dallo Stato, il valore della rete in rame Telecom si abbasserebbe o addirittura alcuni ritengono che crollerebbe. E visto che questa rete garantisce il debito di Telecom, ovviamente la società cerca di difendersi. Però questo è un tema complesso, ci sono state molte puntate nelle ultime settimane. Diciamo che quello dell'antitrust è l'ultimo capitolo di una vicenda che va avanti da mesi e che ha visto anche il governo intervenire dopo che Telecom aveva annunciato un cambiamento dei piani di investimento nelle zone a fallimento di mercato. Allora, tutto ciò è molto importante perché, come abbiamo detto, lo Stato ha messo a disposizione una serie di risorse pubbliche, quindi interviene direttamente in una serie di zone dove gli operatori hanno dichiarato di non voler fare infrastruttura. È stata fatta una consultazione, il governo ha chiamato tutti gli operatori e ha detto: tu hai intenzione di investire? Dove hai intenzione di investire? In tutte le zone dove gli operatori privati hanno dichiarato di non essere interessati ad investire, lo Stato si è preso carico di queste zone e quindi, visto che gli operatori privati non erano intenzionati, in queste zone lo Stato può utilizzare risorse pubbliche. Altrimenti sarebbe un aiuto di Stato e l'Unione Europea non avrebbe dato il consenso. Però se poi uno cambia dopo poco i propri piani, ovviamente lo Stato dice: no, tu avevi dichiarato che lì non volevi investire, per questo motivo io sto utilizzando delle risorse pubbliche. Se tu invece in quella zona vuoi investire e durante la consultazione avessi espresso questa intenzione, noi avremmo risparmiato risorse pubbliche, quindi non avremmo investito. Sembra un discorso complesso, ma è un discorso poi molto semplice perché riguarda i soldi che noi cittadini poi investiamo in queste zone. Quindi la querela è molto importante, anche perché da tempo commentiamo le classifiche che l'Europa ci fornisce e che ci vedono tra gli ultimi posti nella classifica per diffusione della rete internet, per capacità della rete internet, per utilizzo della rete internet, e ovviamente questo grande progetto dovrebbe servire da qui al 2020-22 a ridurre questo gap che noi abbiamo e quindi salire in questa classifica. Quindi come paese abbiamo tutto l'interesse che questo processo vada avanti e che nessuno lo ostacoli, quindi ben venga anche l'indagine dell'antitrust che cerca di capire che cosa si sta facendo. C'è anche chi dice, secondo altri osservatori, c'è anche chi dice che questa è una mossa, diciamo, concertata per far sì che ci sia una sorta di accordo tra TIM, Telecom Italia e Open Fiber, questi due grossi soggetti che stanno facendo infrastrutture. Comunque lo vedremo abbastanza presto, perché probabilmente nei prossimi mesi ci sarà una risposta a molte delle domande che ci stiamo facendo in questi mesi. Adesso due approfondimenti che prendono spunto da due notizie della settimana. La prima riguarda la chiusura di un sito di commercio elettronico specializzato in elettronica di consumo che ha sempre fatto parlare di sé per, diciamo, prezzi particolarmente scontati. La polizia ha chiuso il sito Gli Stocchisti e arrestato 18 persone, quindi un'operazione piuttosto importante. Allora, prendiamo spunto da questa notizia, poi ne abbiamo un'altra di notizie da commentare. Gianfranco Giardini, il direttore del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, bentornato 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, ripartiamo dalla notizia. Ho anticipato alcuni dettagli, però c'è qualche cosa da aggiungere. La notizia è che è stata, pare, accertata, comunque diciamo ci sono indizi sufficienti per scatenare gli arresti che sono stati fatti, una frode fiscale importante con evasione di IVA e altre cose che saranno da accertare, legata tra gli altri al sito Gli Stocchisti. Stocchisti è un sito che è diventato rapidamente nei mesi scorsi molto popolare perché pur con diciamo ottime recensioni da parte degli utenti sulla puntualità di consegna, sul fatto che gli ordini andassero a buon fine, offriva prezzi in alcuni casi nettamente inferiori rispetto a tutti gli altri retailer online e in negozio. Sì, a maggior ragione offline. E quindi questo chiaramente ha anche fatto sì che gli Stocchisti, che peraltro hanno investito anche in comunicazione su tutti i canali online in questi mesi, ancora ci sono delle campagne residue che girano, e a me è capitato proprio di vederle ieri, quindi ancora ci sono delle campagne, però si sia diventato molto popolare proprio con una sorta di tam-tam, no? Quindi compra lì perché i prezzi sono compra buoni. Lì perché i prezzi, sì, sono partiti. Effettivamente i prezzi erano molto buoni, devo dire in alcuni casi troppo buoni, e questo avrebbe dovuto forse fare insospettire. Vabbè, comunque la sostanza è che poi la giustizia fa il suo corso, noi non ci occupiamo di tecnologia, ci interessa relativamente. Quello che invece ci interessa di più è chiarire che nel mercato elettronica di consumo degli smartphone, dei tablet, dei PC, dei televisori non esistono più da tempo marginalità che consentano di fare grandissimi sconti. Certo, ci può essere il caso del prodotto che sta uscendo di produzione o già uscito di produzione, delle rimanenze da finire, ma sono casi che sia in termini numerici sono molto contenuti e sicuramente non possono creare un'offerta continuativa, possono essere occasioni che capitano e finiscono anche velocemente. E chi riesce a fare prezzi drasticamente più bassi del mercato in pianta diciamo stabile, drasticamente intendiamo più del 20-30%, 20-30 anche 40% sì, più bassi del mercato, non possiamo dire che c'è una presunzione di reato, evidentemente, certo, però, vanno guardati con sospetto, non si può far finta di niente e dire semplicemente ma vabbè, ho fatto un affare e basta. Ecco, può essere, come pare che sia in questo caso, che dietro prezzi di questo tipo ci siano delle manovre di elusione o evasione fiscale che di certo spiazzano gli altri operatori che fanno le cose per bene e quindi in qualche modo spingono magari anche i meno integerrimi a a seguirli su queste strade per cercare di competere, evidentemente. E dall'altro lato, chiaramente, mette in difficoltà gli operatori che invece vogliono fare le cose per bene, vogliono essere sani, vogliono essere all'interno del contesto delle regole. E questo chiaramente è in realtà un grave danno per il mercato. Certo. Un grave danno per il mercato, al di là del danno evidentemente per la collettività e per i mancati introiti fiscali. Poi parliamo di una conseguenza o possibile conseguenza per chi ha acquistato su questo sito, ma in generale poi su siti che chiudono per vari motivi oppure vanno incontro a conseguenze come quella degli stocchisti. Diciamo che quello che tu hai poco fa ricordato vale soprattutto per chi questi sconti li fa in modo permanente, e ovviamente ci sono grandi catene di cui sentiamo spesso che magari fanno per periodi brevi degli sconti. Anche in questo caso devo dire che, vista la marginalità non tanto elevata che ormai c'è sull'elettronica di consumo, in molti casi o si va in perdita per motivi promozionali oppure si devono raggiungere dei target, degli obiettivi. Come la perdita per motivi promozionali ci può anche stare, un investimento come un altro, quindi queste offerte temporanee, come dicevi, possono esistere, è chiaro che devono essere temporanee. Se un sito, parlo di siti perché è più facile che questo accada online, fonda la sua ragione d'essere, la sua proposizione commerciale solo sul fatto di avere dei super prezzi fuori da ogni allineamento col resto del mercato, pensare male secondo me è lecito. Sì. Ricordiamo che nella stragrande maggioranza dei casi l'acquirente non rischia nulla, ma non è completamente detto. Allora, dal punto di vista teorico potrebbe rischiare, perché come dicevamo non si può far finta di non sapere che sconti di questo tipo o disallineamenti clamorosi rispetto a tutti gli altri operatori possono essere naturali, quindi si potrebbe configurare anche un incauto acquisto. Diciamo che francamente io penso che tutti i clienti degli stocchisti o di siti che hanno vicende simili siano in realtà al riparo da qualsiasi rischio penale. Non mi viene da pensare che non possa che essere così. Certo. Anche se dal punto di vista teorico potrebbe configurarsi appunto un minimo di... Ma ecco, quello che il invece, vero rischio, ecco, quello che vale ricordare... Il vero rischio, è il motivo per cui in realtà ne parliamo, è la garanzia di legge. Ricordiamo, perché si fa tanta confusione a tanti anni dall'entrata in vigore della legge europea del recepimento italiano sul codice del consumo e la garanzia di legge, che la garanzia di legge è riconosciuta solo e soltanto dal rivenditore, cioè l'unico col quale stabiliamo un rapporto commerciale. Io compro dal rivenditore tal dei tali ed è lui col quale ho stabilito il contratto di acquisto, di compravendita, di fatto, è lui il soggetto che mi deve riconoscere la garanzia di 2 anni, quella garanzia di legge. Cioè qualsiasi guasto è lui che dovrebbe rispondere. Dopodiché le aziende, più per motivi di marketing che per motivi di legge, non hanno alcun obbligo di legge da questo punto di vista, offrono anch'esse una garanzia che viene chiamata convenzionale o addirittura, non a caso, garanzia limitata, perché ha dei limiti, mentre quella di legge è normata dalla legge. Questa invece ognuno se la costruisce un po' come vuole. Per esempio potrebbe esserci un prodotto che è in garanzia per quanto che riguarda la manodopera, ma non i pezzi di ricambio, solo i pezzi di ricambio, non la manodopera, solo on site, cioè scusate, solo on center, non on site. Al rivenditore sta tranquillo. Il rivenditore è quello che deve riconoscere. Qui, da qui viene il valore vero di acquistare presso un rivenditore, che sia online, che sia offline, non voglio dire niente, ma che sia solido, che esista oggi e domani. Chiaro è che qui non è importante che ci sia stata evasione o elusione fiscale, ma se io compro da un negozietto che non so online, che non so dov'è, non so se c'è, non so se è uno scantinato, magari per risparmiare 50 euro, ecco, sto facendo una scommessa sul fatto che questo rivenditore continui a esistere. Tanto che esista e poi che continua a esistere, e se no è come se in qualche modo mi pigliassi, ma devo essere consapevole, mi piglio dei rischi. Se succede qualcosa nei primi 2 anni potrei non avere l'interfaccia che è l'unica che legalmente mi deve riconoscere la garanzia. Ovviamente c'è la possibilità, anche perché ha comprato dagli stockisti, di rivolgersi al produttore, però attenzione, il produttore riconosce la garanzia a seconda delle proprie policy per prodotti per esempio distribuiti dall'Italia, no? Certo. Faccio un caso, ci sono per esempio dei marchi che sono distribuiti dai distributori italiani che garantiscono i prodotti che circolano attraverso il distributore italiano e magari riconoscono con più difficoltà o facendo dei check successivi o magari con dei limiti maggiori gli stessi prodotti che però provengono da altre nazioni estere, magari anche extraeuropee. Quindi tutti i numeri non lo sappiamo magari, ma tutti i prodotti, scusate, hanno un seriale, un numero seriale che di fatto riconduce permette al produttore di tracciare. Il produttore potrebbe anche dire guarda, questo non l'ho distribuito io, sì, non posso, rivolgiti al rivenditore. Ma sì, se il rivenditore non esiste più, ecco che che nasce un problema. Bene, l'altra notizia della settimana invece riguarda una trasmissione, la prima della storia dell'Italia, che è stata fatta lunedì sera dalla RAI attraverso la piattaforma satellitare TV, la prima trasmissione, un bellissimo documentario su Venezia, sì, la prima trasmissione in 4K HDR. Sì. Allora, qui, visto che parliamo di TV, che è, lo ricordiamo spesso, l'elettrodomestico più popolare, uno dovrebbe sapere quasi tutto dei televisori moderni. È molto difficile in realtà. Esatto, perché ormai ci sono un sacco di cose da sapere. Però questo è importante perché è tecnologicamente una delle ultime rivoluzioni. Non tanto il 4K, ma questa nuova sigla HDR. HDR, che sta per è l'acronimo di alta gamma dinamica. High Dynamic Range. Che cosa sta a significare in buona sostanza? Sta a significare che il TV innanzitutto, ma anche il segnale a monte deve essere, è in grado di rappresentare una gamma più ampia di chiari e di scuri. Adesso cerco di semplificare, ovviamente. Sì, io ho settato Gianfranco Giardini in modalità semplice, perché effettivamente HDR è una roba che può essere anche molto complicata. Questo cosa vuol dire? Se noi facciamo, per esempio, capita spesso, no, con uno smartphone, no, facciamo una foto in casa e inquadriamo una finestra, no? Ma inquadriamo anche un soggetto che è in casa in quel momento. Allora, a seconda di dove schiacciamo col dito sullo schermo, esponiamo bene la persona che è all'interno o quello che c'è fuori dalla finestra. Però se io espongo bene quello che c'è fuori dalla finestra, che è molto illuminato, tutta la stanza diventa molto scura. Se io espongo bene la stanza schiarendo un po' l'immagine, ecco che tutto quello che c'è fuori dalla finestra diventa bianco, no? Cosa vuol dire? Ho raggiunto la gamma dinamica della mia fotocamera, cioè non riesce a riprodurre i chiarissimi e gli scurissimi e farmeli vedere come vedo io occhio nudo. L'occhio ha una gamma dinamica abbastanza ampia. Sì. Il sistema di codifica e riproduzione che oggi abbiamo sui TV ha una gamma dinamica molto più bassa, motivo per cui io capisco immediatamente che un'immagine che vedo su TV, per quanto bella sia, non è vera, non è reale. È un'immagine riprodotta e il vero limite è proprio la capacità di farmi vedere contemporaneamente gli chiari e gli scuri come li vedo nella realtà. Arrivano TV con capacità di luminosità di picco più alte, quindi capacità di rendere anche i bagliori di quando guardo il sole, tanto per intenderci, quindi quei bagliori molto forti, di essere fedele sugli scuri, e arriva anche un segnale televisivo, ecco perché la messa in onda che ha fatto RAI, certo, è molto importante, cioè, un segnale televisivo, tutta la catena. Che ha una codifica che mi permette di sfruttare questa capacità dei TV, se no i TV sono HDR, ma se le immagini non sono HDR le vedo in maniera abituale. In questo modo che cosa ho? Riesco a vedere contemporaneamente sullo schermo oggetti, cose, punti molto luminosi e punti molto scuri, arrivando ad avvicinarmi molto di più alla capacità dell'occhio di discriminarli. Quindi io vedrò un'immagine che sarà più naturale, cioè più vicina all'immagine che io vedo a occhio nudo. molto più vicina. Adesso tu hai detto giustamente 4K e HDR, forse è più importante l'HDR. Adesso, nel caso specifico, la trasmissione era già stata mandata in onda, questo documentario di Alberto Angela era stato già mandato in onda a metà giugno in versione solo 4K, non HDR, e ha avuto un discreto successo tra i possessori di TV 4K con tuner satellitare, perché ricordiamo arriva da satellite. Lì in quel caso è una risoluzione che è 4 volte quella del Full HD, quindi un dettaglio incredibile, ma tutto questo discorso sui chiari e sugli scuri, che ricordiamo il documentario è Una notte a Venezia, quindi tutte riprese notturne fatte a Venezia, anzi mi raccontavano girato anche alle 3 alle 4 di notte per avere gli scenari completamente vuoti, Venezia non è mai vuota se non alle 3 alle 4 di notte, quindi tutte queste scene dove ho le luci elettriche, i riflessi sull'acqua, eccetera, eccetera. L'HDR è fondamentale. È fondamentale, cioè, sì, sì. Non è più che fondamentale, cambia, è un game changer, cambia veramente infatti, la modalità di visione. Infatti, domanda: stiamo parlando di una caratteristica da appassionati, da addetti ai lavori, da tecnici, o se io metto di fronte l'uomo della strada a un'immagine 4K con o senza HDR, uno se ne accorge o fa fatica? Allora, come sempre ci vuole che per il 4K che il TV sia grande, no? Sì. Se no non si capisce. Però ormai è abbastanza evidente a tutti gli operatori che l'HDR si capisce più del 4K. Tanto è vero che nei disegni per la TV del futuro che si stanno discutendo in questi mesi per capire cosa succederà nel 2020-2022, ci sarà un cambiamento di sistema, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato altre volte, non ne parliamo adesso, ma per decidere che cosa succederà per esempio alle trasmissioni digitali terrestri, la tesi più accreditata è che le immagini diventeranno per tutti i canali Full HD, HDR, quindi non 4K, perché occuperebbe troppa banda che sul digitale terrestre non c'è, ma sarà Full HD, ma con l'introduzione della codifica HDR, il che permetterà a tutti quelli che oggi, a loro insaputa, e sono tanti, stanno comprando dei TV HDR e non sanno neanche che cosa questa sigla sia, di vedere queste immagini in questa modalità. E uno non capirà, probabilmente, se non ha ascoltato 2024, se non ha letto Day.it, non capirà che la differenza è data dall'HDR, però dirà: mamma mia come si vede bene. Ecco, questo sicuramente lo capisce, magari non capirà il perché si vede bene, ma capirà che si vede in maniera completamente diversa. Quindi questo che cosa comporta? Beh, fare un acquisto, perché acquista il TV oggi, consapevole del fatto che già adesso incominciano le trasmissioni, adesso sperimentali, in HDR. È stato stabilito, questa è la vera notizia dal punto di vista tecnico, quale sarà il sistema di trasmissione, la codifica, ce ne sono diverse, cioè lo standard HDR che verrà usato sulle trasmissioni televisive, che si chiama HLG, va bene, un'altra sigla ancora, comunque questo HLG verrà usato da Rai, che già l'ha incominciato a sperimentare, ma è stato già confermato, diciamo, noi abbiamo già le conferme, che diciamo non c'è ancora una conferma ufficiale, noi abbiamo già le conferme che sarà lo stesso utilizzato anche da Sky. Quindi che si sta preparando per fare trasmissioni HDR. Trasmissioni, cioè contenuti in HDR, ci sono online. Cioè, se uno collega il televisore con qualche sistema di streaming, può vedere alcuni... Allora, se qualcuno ha un TV HDR che è già certificato, per esempio, da Netflix per questo tipo di utilizzo, quando lancia alcuni contenuti su Netflix, uno dei più belli proprio dal punto di vista dell'effetto è il serial Marco Polo, perché è girato quasi pensando già agli utilizzi dell'HDR, quindi ha proprio delle contrapposizioni di chiari scuri che normalmente si evitano. Normalmente perché si evitano perché avresti problemi poi a codificarli. Invece, se tu giri pensando già all'HDR, giri in una maniera diversa. Ecco, Marco Polo è stato girato in quella maniera, e per chi vuol provare a vederlo, certo, è uno spettacolo dell'immagine. Poi il serial può piacere, può non piacere, ma se guardiamo la qualità d'immagine, noi stiamo pensando a quella adesso, è una cosa incredibile. Sì, sì, sarebbe bello parlare di queste tecnologie che possono sembrare complicate con i registi, con i direttori della fotografia, perché conoscendo la tecnologia, anche chi si occupa dell'aspetto puramente artistico, perché il regista si dovrebbe occupare prevalentemente di quello, ecco, queste due cose vanno assieme. E il direttore della fotografia sono quelli che sono chiaramente più interessati da questo aspetto e stanno in qualche modo cambiando il modo di girare, o meglio, ormai tutto viene girato quasi sempre in digitale, ma viene girato con una gamma dinamica e una profondità di bit tale per cui io posso fare, come dire, un'estrazione HDR di quel contenuto. Poi viene fatto un cosiddetto downsampling, quindi viene estratta normalmente una versione, diciamo, semplificata come dati, però sono contenuti che possono già oggi, già quelli che vengono catturati oggi, che possono supportare l'HDR. Quindi sarà facile vedere una diffusione, grande diffusione di contenuti HDR nel futuro. Quello che invece ancora non cambierà o non cambierà drasticamente è il modo di girare, perché se io facessi come è stato fatto per esempio in Marco Polo, inquadrassi un primo piano molto scuro con a fianco una torcia infuocata che è molto luminosa e sperando che un TV normale, non HDR, con una codifica HDR mi faccia vedere bene entrambe le cose, sbaglio, perché probabilmente per rendere il volto leggibile, che è sulla parte scura dello schermo, dovrei bruciare completamente la fiamma che diventerebbe una macchia bianca. Invece quello che succede su un TV HDR guardando questa scena è che io riesco a vedere nella penombra, come vedrei se un viso fosse in penombra, riesco a distinguere precisamente il viso nella realtà, e la fiamma, sì. Eh sì, nella realtà, e la fiamma ha precisamente i colori e le tinte che ha una fiamma, molto chiare ovviamente, ma non indistinte, una macchia bianca. Sì, sì. Quindi, stiamo avvicinando all'occhio umano. Ci stiamo avvicinando un po' di più e questo è un grande passo avanti. Senti. Noi pensiamo che già il TV abbia delle immagini incredibili, si può fare di meglio, si fa già di meglio oggi. Sì, sì, sì. Poi potremmo parlare del cinema, ma ne parliamo un'altra volta. Ti faccio una domanda a proposito di televisori. Questa nuova tecnologia avvicina le distanze tra il mondo LCD LED, cioè TV LED LCD, all'OLED? Allora, sappiamo che OLED offre una qualità d'immagine superiore alla media, o comunque migliori OLED offrono un'immagine superiore all'LCD LED. Questa tecnologia avvicina un po' le distanze? Sì, in qualche modo sì, per un motivo molto semplice. I TV LCD LED riescono ad avere luminosità di picco molto più alte, direi tendenzialmente doppie rispetto a quelle che riescono ad avere gli OLED, perché gli LCD, ricordiamo, sono retroilluminati, basta aumentare la potenza della lampadina che c'è dietro ed ecco che esce più luce. L'OLED invece genera, ogni pixel genera la luce che serve, per quanto siano stati molto migliorati, l'ultima generazione di OLED ha una luminosità di picco del 20% superiore rispetto a quella precedente, comunque siamo ancora a dei livelli che sono strutturalmente inferiori. Allora, livelli che bastano e avanzano per fare un ottimo HDR, però meglio se in una situazione, in una stanza che non è eccessivamente luminosa. L'LCD LED torna in gioco prepotentemente se l'abitudine di visione è di una stanza molto illuminata, perché a quel punto che il nero sia totalmente profondo potrebbe interessare anche relativamente, perché ho una luminosità ambiente che in qualche modo disturba e quindi devo tirare su tutta la luminosità, e il LED LCD ha più spazio, diciamo, verso le alte luminosità, riesce a garantire una massima luminosità di picco, una maggiore luminosità di picco, tale per cui anche in un ambiente illuminato l'effetto HDR viene in qualche modo conservato. Quindi dipende molto a questo punto. Dalle tipicità di utilizzo. Io ancora mi sento di preferire per certi versi l'estetica OLED, che mi ricorda più il plasma e quindi più il tubo catodico, però è anche stiamo entrando anche nel mondo, diciamo, dei gusti. Di fatto l'OLED ha, diciamo così, una qualità minima garantita che è molto alta, però non esistono prodotti, diciamo, da 500 euro, ecco, questo bisogna metterselo in testa. Il LED LCD esiste un po' di tutte le qualità, prodotti molto validi a costi importanti e prodotti molto, mi permetto di usare, squallidi, sì, sì, a, sì, a prezzi molto convenienti. Quasi da vietare. Però, vabbè. Dovrebbero essere da vietare, ma non soltanto per la qualità d'immagine, anche per altre dotazioni. Sì, un sì. TV, visto che ne stiamo parlando, dovrebbe avere categoricamente oggi, nel 2017, il tuner digitale terrestre, ovviamente in regola con la legge, quindi DVB-T2 HEVC, che sono delle specifiche che devono essere chieste, ma il tuner satellitare anche, perché abbiamo visto che molte trasmissioni arrivano dal satellite e ne arriveranno sempre più in futuro, e un ambiente smart TV che sia adeguato diciamo alle aspettative che un cliente ha, quindi presa di rete di sicuro, ma anche un ambiente che mi permetta di caricare tutte le app del caso, ecco. Bene, grazie a Gianfranco Giardina. Gianfranco, a presto. Grazie mille. Adesso per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, mi trovate anche su Facebook oppure su Twitter. Vi ricordo che esiste una edizione speciale del nostro podcast che abbiamo ribattezzato Super Podcast perché contiene tutte le nostre interviste in versione integrale. Adesso parliamo di criptomonete, di monete digitali, con David Orban, docente alla Singularity University e managing partner di Network Society Ventures. David, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Parliamo questa settimana, in questa puntata, di criptomonete, ma poi vi faremo capire che non faremo una chiacchierata da nerd. Cerchiamo, giusto, di andare oltre l'applicazione immediata relativa ai pagamenti oppure ad accumularli come beni di rifugio, dando l'idea di a che cosa poi servono se c'è qualcosa, cioè, di diverso. Ti faccio subito una domanda per chiarire agli ascoltatori che il fenomeno delle criptomonete è un fenomeno reale, concreto, globale. Nelle ultime settimane abbiamo commentato la crescita in termini di valore sia di Bitcoin, di Ethereum in particolare. Insomma, questo è un fenomeno concreto. Ma se chiedi agli olandesi che nel 1600 e rotti credevano nel valore esplosivo dei bulbi di tulipani, non è che l'aumento di valore di per sé lo rende reale. È il permanere nel tempo dell'utilità e dell'affidabilità che lo rende reale, perché si radica nelle applicazioni quotidiane. Se tu tiri fuori una banconota da 10 euro, nessuno ti dirà «Ma cos'è sto pezzo di carta?». Tutti tranquillamente lo accettano. Ed è questo che pian piano succederà con le criptomonete. Stiamo comunque parlando di un fenomeno che è agli inizi. C'è chi sta paragonando l'esplosione, cioè tutto il mondo che è attorno alle criptomonete, io ne ho citate due, ma ce ne sono, mi sembra, alcune decine e forse in embrione alcune centinaia. C'è chi l'ha paragonato agli inizi di internet. Negli anni 90 nessuno capiva niente di internet. Noi parliamo spesso di accelerazione del cambiamento tecnologico e ci sono delle bellissime curve che fanno vedere come la radio ci avesse messo tanti decenni ad arrivare ad una penetrazione del 70, 80, 90% nelle case, la televisione, il frigorifero, la lavatrice, la lavastoviglie, oggetti come il forno a microonde o il lavasciuga in Italia ancora hanno un tasso di penetrazione che non è universale, per quanto questi siano oggetti comodissimi. Internet in effetti è diventato visibile alle persone che non erano specialisti negli anni 90, ma è nato negli anni 70 e come esercizio accademico, come sperimentazione, originariamente partito da esigenze militari. Le criptomonete sono nate letteralmente nel 2009, neanche 10 anni fa, e quindi l'ondata di cambiamento che stanno provocando con decine di miliardi di dollari, da una parte di capitalizzazione, dall'altra parte di risorse, di aziende, di banche, di consorzi che si stanno organizzando per approfittare delle loro funzionalità è fulmineo. C'è chi dice però che siamo di fronte ad una bolla. I cambiamenti che ci sono stati del tasso di cambio di Bitcoin nei confronti del dollaro e di Ethereum anche, soprattutto perché questo è stato ancora più rapido nella crescita nelle ultime settimane, penso che indichi a tutti che è presente una componente di speculazione, dei cicli che se sono virtuosi o viziosi lo vedremo. La bolla di internet è scoppiata a marzo 2000 e sicuramente si è portato via una serie di aziende che non avevano modelli di impresa sostenibili o erano troppo in anticipo sui tempi, ma anche costruito attraverso le risorse dedicate a stendere cavi, a capire come si sviluppano i siti web, eccetera, le premesse per tutto quanto vediamo attorno a noi oggi, incluse aziende come Amazon, eBay e tante altre, che esistevano già allora e che hanno continuato a irrobustirsi tranquillamente superando le difficoltà dovute allo scoppio della bolla. Sì, quindi da un certo punto di vista non dovremmo neppure occuparci della possibilità che ci sia una bolla. Perché tu dici, vista nel medio-lungo periodo, questa è irrilevante? Allora, da parte delle persone che si occupano di investimenti finanziari c'è la preoccupazione che persone che non sono del mestiere si comportino in modo irresponsabile, cioè alla ricerca di un facile guadagno impieghino risorse che non dovrebbero a prendere Bitcoin, a prendere Ethereum, perdendoci poi anche quello che non possono permettersi di perdere. Quindi questo è da parte di coloro che dicono attenzione, non dobbiamo farci trasportare da un eccesso di entusiasmo, questo è il punto di partenza che è assolutamente legittimo. Certo, però tu dici dal punto di vista tecnologico questo non ci deve preoccupare o ci deve occupare poco. È un nuovo fenomeno che abbiamo di fronte e se mi permetti introdurrei un elemento che è apparentemente slegato, ma poi lo ricollego e spero che i nostri ascoltatori avranno la pazienza di seguirci. E una ventina di anni fa è partito il movimento open source, dove i programmi, invece di essere proprietari, chiusi, sia letteralmente in scatola, incelofanati, che anche in termini di licenza d'uso, nessuno può andare a sfrucugliare all'interno di Microsoft Windows o di Microsoft Word, ecco, si sono presentate nuove soluzioni che invece incoraggiano questo, incoraggiano le persone che sono esperti di guardare nel codice, di collaborare a migliorarlo, correggerne i difetti o addirittura aggiungere nuove funzioni. E mentre inizialmente le persone addette al mestiere, soprattutto di provenienza così professionale da parte di aziende che proponevano soluzioni proprietarie, erano scettiche sulla possibilità che questo approccio avesse successo, oggi a 20 anni di distanza possiamo affermare che l'open source ha vinto, ha stravinto. Sì. Non solo Microsoft oggi ti permette di scaricare Linux e di installarlo perché sanno che tutti vogliono poter approfittare di questa possibilità. Sì, lo permette per le aziende, diciamo, sui sistemi cloud. Sì, sì, e diciamo Microsoft non è che vende computer di per sé, sì, sì. Ma mentre 10-20 anni fa esistevano degli accordi di esclusiva, per cui tu vedevi le pubblicità Dell vende computer esclusivamente con Microsoft Windows, oggi questi accordi non hanno più particolare senso. Questo vale soprattutto nel mondo business, perché se poi noi guardiamo gli strumenti che abbiamo in mano e i computer che ancora compriamo, il mondo non open source proprietario è ancora abbastanza forte e diffuso. Non è affatto vero. La stragrande maggioranza degli strumenti che oggi compriamo, anche se non li chiamiamo computer, sono dei computer, non li teniamo sulla scrivania, li mettiamo in tasca, si chiamano telefoni cellulari e vanno con sistemi operativi open source, perché Android è open source, si basa su Linux. È vero, però ti potrei dire che qua c'è una corrente di pensiero piuttosto nutrita, che l'Android, così come è creato da Google e così come è pacchettizzato da chi ci vende il telefono, è un open source, insomma, un po' blindato. È verissimo, perché la genialità di Google e di Facebook, che senza open source non esisterebbero, certo, è di aver capito come l'open source permette loro di guadagnare, perché ci mettono sopra del valore. E ci sono tante aziende, produttori di telefoni, che hanno cercato di snobbare Google Play o la suite di programmi di collaborazione di Google per scrivere, di tabelle elettroniche o di quant'altro, per poi accorgersi che i loro utilizzatori volevano questo. E quindi tornavano da Google per dirgli: avevi ragione, Android è libero, però io preferisco pagare per avere quello strato superiore di valore che ci vuole, che corretto, serve. Corretto. Allora, perché ho fatto questa premessa? Perché hai fatto questa premessa? E grazie per la pazienza degli ascoltatori che ci hanno seguito. Perché nel mondo delle criptomonete non c'è neanche lontanamente l'ombra del dibattito se essere open source o codice chiuso e proprietario. È inconcepibile che un progetto che si basa su Bitcoin o Ethereum o altro non sia open source. Sono open source tutti. Certo, dalla nascita. E che cosa viene aggiunto in modo naturale, intrinseco, proprio genuino? L'allineamento degli interessi economici, che fanno sì che utilizzatori, sviluppatori, investitori, terze parti che impiegano queste componenti software siano tutti intimamente cointeressati al successo del progetto, che migliora il valore del token sottostante. Che cosa succede quando... Allora, che cosa succede quando tu compri un... Oggi non si fa più. Qualche anno fa si andava in un negozio e si comprava la scatola di un prodotto software con dentro il CD per andare a casa, installarlo, e c'erano l'aprire la scatola indicava che tu accettavi la licenza d'uso, per esempio, tutte queste cose qua. Ma se qualcosa non funzionava, eri un po' da solo. Sì, certo, potevi segnalare il bug al produttore, ma alla fine aspettavi che questo fosse aggiornato un anno, due anni, tre anni di distanza, e nel frattempo non potevi fare assolutamente niente. Oggi i cicli di riscontro che avvengono non sono di due, tre anni. Sono di due o tre settimane, di due o tre giorni, o addirittura di due o tre ore, tra lo scoprire un malfunzionamento e correggerlo, o immaginare una nuova funzionalità e renderlo disponibile a tutti. La ragione di questo, intima, è perché se non correggi, perdi miliardi di dollari, letteralmente. Cioè, perché stiamo parlando di criptomonete. Stiamo parlando di una nuova piattaforma software il cui funzionamento è sostenuto da un, usiamo questa parola, token informatico, che ha un suo valore. Ti faccio un'analogia. In molte aziende, assieme allo stipendio vengono dati dei servizi alle persone che lavorano in azienda. Uno di questi servizi che si può ricevere è il buono pasto. Okay. Il buono pasto ha un valore simbolico di 8-10 euro, adesso non so quant'è ultimamente. Sì, dipende dall'azienda, insomma. E tu puoi spendere questo buono tipicamente per mangiare alla mensa, ma c'è chi tranquillamente lo prende e va al supermercato per usarlo. Allora, immagina che qualcuno si accorge che un ristorante che accetta il buono ha uno chef stellato Michelin, e che, nonostante ci sia scritto sul buono 8 o 10 euro, quelli che siano, caspita, l'esperienza di mangiare lì vale molto di più. E viene da te e dice, senti, dammi i tuoi buoni che ti offro 20 euro. E tu dici, no, senti, preferisco portare la mia ragazza. E lui dice, ma ti offro 100 euro. Prima o poi arriverà il momento in cui tu dici, caspita, sì, il valore di mercato di questo biglietto e fa sì che io voglia scambiarlo, voglia darlo per quei 100 euro che ricevo. Okay? All'interno del mondo delle criptomonete si stanno presentando questi token che non sono più né Bitcoin né Ethereum, ma sono su un livello superiore vengono utilizzati per costruire nuovi servizi, nuovi prodotti informatici che si stanno finanziando attraverso la prevendita, la preallocazione, la predistribuzione di questi, fra virgolette, buoni pasto per servizi che dovranno poi essere costruiti. Senti, tu dici che le criptomonete, ma soprattutto i meccanismi che permettono l'esistenza delle criptomonete, sono una nuova piattaforma per nuove applicazioni. Per farci che cosa? Cioè, che cosa potremmo immaginare possa accadere nei prossimi anni? Negli anni 50, quando si diffondevano i cervelli elettronici, addirittura avevamo una classe sacerdotale vestita di camicioni bianchi e solo loro potevano entrare nelle stanze con aria condizionata a toccare queste macchine misteriose. Negli anni 80 e 90 si sono diffusi i personal computer che poi si mettevano in rete, ma queste reti erano abbastanza labili. Andando a più di un centinaio di nodi, le architetture cosiddette client server cascavano letteralmente, non si reggevano su. Oggi Google o Facebook sono talmente affidabili che se cascano, e succede ogni tanto, Twitter per esempio è stato attaccato e non si reggeva per qualche ora, soprattutto sulla costa orientale degli Stati Uniti, fa notizia da prima pagina perché siamo abituati al fatto che sono sempre disponibili. Ma la loro affidabilità impallidisce rispetto a quella che dovrà reggere la nostra società sempre più complessa in futuro, dove meccanismi automatici, non supervisionati direttamente da persone che spingono i bottoni un po' come hanno fatto gli operatori a Chernobyl, sbagliando i pulsanti che dovevano spingere, effettueranno una gestione automatica delle nostre città, delle nostre infrastrutture, dei flussi di prodotti, internet degli oggetti, che sarà pervasiva. E non ci potremo permettere che questo caschi. L'elettricità che funzionerà su le microgrid di nuova generazione, gestendo offerta e domanda dinamicamente, dovrà essere sempre, sempre, sempre disponibile. Così come, non so, i nostri le nostre pompe di insulina impiantate o i sistemi di ricerca di internet di tipo bionico che Elon Musk vuole fare con Neuralink. Sì. Il tasso di affidabilità dei nostri sistemi informatici sarà paragonabile solo a quello che avviene oggi, è l'unico sistema così affidabile che conosciamo, nei nostri corpi. Abbiamo miliardi di cellule, ognuna delle cellule ha il DNA che, trasformato in RNA, ha le ricette per costruire proteine minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, e funziona. Quindi tu stai dicendo che il meccanismo che permette gli algoritmi, le tecnologie che servono per far funzionare queste criptomonete, stanno creando le basi per la internet del futuro. Non un computer, perché è riduttivo chiamarlo un computer, ma non abbiamo ancora una parola adeguata, una piattaforma, un sistema, una rete planetaria di supercalcolo decentralizzato, che è quindi molto robusto, molto resiliente, con un'affidabilità senza precedenti. Molto semplicemente perché se c'è un baco, i soldi spariscono. E infatti è successo questo. L'anno scorso, con entusiasmo e forse con un po' di fretta e irresponsabilità, è stata lanciata una piattaforma sopra Ethereum chiamata The DAO. Questa piattaforma ha raccolto 150 milioni di dollari nell'arco di un mese e nell'arco di pochi giorni successivamente 50 di questi 100 sono spariti perché c'è stato un baco che ha permesso a qualcuno di farli sparire. Sì, soldi veri, perché soldi in entrata erano dollari trasformati in moneta virtuale. In uscita erano virtuali e oggi in effetti, proprio per natura di come le criptomonete funzionano, è possibile sapere che con molta probabilità il hacker o il gruppo di persone che ha fatta questa rapina moderna non ha ancora toccato quello che hanno prelevato, cioè ci stanno seduti sopra per vedere quando e come poi toccarli, cioè i loro portafogli digitali sono intoccati, intoccabili, perché la cifratura forte che protegge noi protegge anche loro, nessuno glieli può togliere. Sì, sì. Però, cioè, i problemi potrebbero nascere, potrebbero, non è detto, nel se momento li vogliono in cui, spendere. Cioè, certo, o spendere direttamente oppure trasformarli in dollari, sì, o sì, in euro. Un po' come un rapinatore che apre la borsa e si ritrova le banconote contrassegnate con l'inchiostro dei sistemi d'allarme, anche loro adesso devono trovare dei sistemi particolari. Ma da allora non è che a causa di questo bug il sistema è crollato, sparito e tutti quanti si lavano le mani e cercano di dimenticare le criptomonete. No, ci sono, innanzitutto il bug è stato corretto e da allora si sono lanciate nuove ICO, questo è un acronimo che incontreremo molto nel futuro, sta per Initial Coin Offering, o un acronimo che io preferisco, TDE, Token Distribution Event, cioè ci sono state nuove iniziative di allocazione di unità di questi nuovi servizi futuri che hanno raccolto 30 milioni in 30 secondi, 150 milioni in 3 ore, cifre inimmaginabili, irragionevoli, ma che sono un po' la garanzia di uno sforzo, perché interesse di tutti che la cosa vada avanti e che abbia successo. Davide, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie a te. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. È tutto per questa puntata di 2024. Quella che avete ascoltato è la nostra versione podcast con le interviste in edizione integrale. Continuate a scrivermi a 2024@radio24.it oppure su Facebook o anche su Twitter. Ci risentiamo la prossima settimana.